Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Conte alla Camera, il recovery plan per l'Italia è un'opportunità storica, il paese sia unito per vincere la sfida in Europa, ma la Lega esce dall'aula in segno di protesta. In Cina torna la paura per i nuovi casi di Covid a Pechino, voli cancellati, quarantena e tamponi a tappeto. Toscana ha indagato il presidente Rossi per turbativa dell'asta sul trasporto pubblico locale, la replica accuse ridicole. Al via la maturità post-Covid, 13.000 commissioni d'esame per 500.000 studenti scaglionati tra oggi e i prossimi giorni. Calcio, finale di Coppa Italia, stasera Napoli-Juventus per il primo trofeo della stagione. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con le parole di Conte alla Camera. L'Italia presenterà il suo recovery plan a settembre, sarà discusso anche dal Parlamento, ma i lavori di consultazione sono già iniziati perché il nostro paese vuole farsi trovare pronto per l'utilizzo delle risorse europee. Così Giuseppe Conte, oggi durante la sua informativa in vista del Consiglio europeo di venerdì, Conte ha anche chiesto unità, ma la Lega è uscita dall'aula in segno di protesta. Oggi anche prima giornata per gli esami di maturità per 500.000 studenti, i primi selezionati, e poi sempre oggi, stasera, si assegna il primo trofeo calcistico della stagione con la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus. Ne parleremo tra poco. Prima partiamo dalla mattinata politica. Conte alla Camera e oggi pomeriggio l'appuntamento con Confindustria agli Stati Generali. Prima alla Camera, poi al Senato, Giuseppe Conte fa appello alla coesione nazionale nella sua informativa sul Consiglio europeo di venerdì. Il Premier non nasconde le difficoltà nella trattativa in corso a Bruxelles e assicura che il piano di riforme che il governo intende realizzare con le risorse in arrivo dall'Europa sarà pronto a settembre e verrà presentato in Parlamento. Sarà una fase cruciale, sottolinea Conte, che torna a rivolgersi alle opposizioni. È il momento di agire con spirito di piena coesione anche sul piano nazionale, perché questa crisi non rechi all'Italia il doppio danno di vederla perdere la sfida economica della ripresa europea e quella, forse anche più difficile, di riformare alcune tradizionali criticità. Un appello respinto però da parte del centrodestra. Lega e Fratelli d'Italia hanno disertato l'aula durante l'intervento del Premier. Il confronto si presenta in salita anche con Confindustria, che agli Stati Generali nel pomeriggio presenterà un suo piano per la ripartenza del paese. Il leader degli industriali, Carlo Bonomi, ieri è tornato a criticare l'esecutivo, accusandolo di aver scelto l'assistenzialismo invece del sostegno alle imprese. Da lui mi aspetto un'ansia da prestazione imprenditoriale, non politica, la replica piccata di Conte. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora i dati economici con la stima, il calcolo dell'Istat sul fatturato dell'industria nel mese buio di aprile in pieno lockdown. Ebbene, il fatturato è sceso di quasi il 30%. Il calo è stato senza precedenti e non poteva essere altrimenti, e così il fermo di numerose attività industriali per il contenimento dell'epidemia e la forte flessione della domanda rivolta alle imprese industriali hanno determinato un calo difficile da ricordare in passato per fatturato e ordinativi. Lo indica l'Istat nel commento ai dati, rilevando che il mese di aprile registra infatti i peggiori risultati per entrambe le serie storiche, in termini sia congiunturali sia tendenziali. Ad aprile il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, è calato del 29,4% rispetto al mese di marzo. Corretto per gli effetti di calendario, è diminuito del 46,9% rispetto all'aprile di un anno fa. Discorso simile per gli ordinativi, flessione del 32,2% su base mensile. Nel confronto anno, l'indice grezzo segna una caduta del 49%, con cali sia nel mercato interno sia estero. L'unica variazione positiva si registra per l'industria farmaceutica, contiene le perdite al settore alimentare, mentre tutti gli altri accusano flessioni superiori al 25%. Il calo più ampio lo registra il settore dei mezzi di trasporto, con un meno 71,2%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, come dicevamo, la scuola è tornata dal vivo con gli esami di maturità. Dopo circa 100 giorni le scuole infatti hanno riaperto i battenti, prima per accogliere i docenti delle 13.000 commissioni e poi a partire dalle 8.30 di questa mattina per accogliere i primi tra i 500.000 maturandi attesi a un colloquio di un'ora tra varie misure di sicurezza. Tra poco sentiremo i loro racconti, le loro voci, sentiremo com'è andata la giornata. Iniziamo invece con la voce della ministra Lucia Azzolina, all'ITS Giacomo Quarenghi di Bergamo. Oggi per me qui a Bergamo è una giornata molto importante, questo è uno dei territori che ha sofferto di più in assoluto nel paese, le cui immagini ricorderemo per sempre, quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa. È una giornata emozionante perché fare gli esami di Stato in presenza non era assolutamente scontato, non è stata una passeggiata, alcuni paesi europei li hanno cancellati, quindi questi esami di Stato rappresentano un po' un trade union con quello che sarà il nuovo anno scolastico. Torneremo, come detto, nella seconda parte di Effetto Giorno a parlarne. Adesso invece allarghiamo lo sguardo all'andamento dell'epidemia di coronavirus nel mondo, perché negli Stati Uniti il super consulente Fauci avverte che il Covid potrebbe riprendere quota, mentre l'allarme resta sempre alto in Brasile e in India e torna forte soprattutto in Cina. Più di 24.000 nuovi casi nelle ultime ore e 840 nuovi decessi. Il virus non ferma la sua corsa negli Stati Uniti, con una crescita dei contagi in 6 stati, soprattutto in Florida, Texas e Arizona, e un bilancio complessivo delle vittime superiore a quello della Prima Guerra Mondiale, 116.963. Sempre difficile la situazione in Brasile. Ieri è stato il giorno più nero, quasi 35.000 i nuovi contagi, 1.282 i morti. Anche a Pechino casi ancora in crescita, 31 nelle ultime ore, scuole nuovamente chiuse e il 70% dei voli cancellati. Aumentano le vittime anche in India, più di 2.000 nelle ultime ore, con Bombay la città più colpita. Calano invece i contagi in Russia, 7.843 nelle ultime ore, il numero più basso dal 30 aprile. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero. La Turchia ha inviato forze speciali di terra nel nord dell'Iraq in una nuova operazione militare contro il PKK curdo, dopo aver già lanciato nella notte tra domenica e lunedì una campagna di raid aerei contro le roccaforti dei ribelli nell'area. Secondo la Turchia, la nuova offensiva è dovuta ad un recente aumento degli attacchi alle basi militari e alle stazioni di polizia nelle aree frontaliere del sud-est. Adesso invece torniamo in Italia con la cronaca. Sospesa la circolare del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria che prevedeva la possibilità di scarcerazione dei detenuti con gravi patologie a rischio contagio Covid. Lo stesso DAP, dopo le polemiche, ricorderete, che erano emerse per la scarcerazione di alcuni boss mafiosi, su cui anche la commissione d'inchiesta antimafia aveva voluto svolgere delle indagini, ebbene il DAP ha deciso di ritirare la circolare a causa del mutato quadro sanitario dell'emergenza Covid. Il presidente della Toscana, Rossi, è indagato a Firenze per la gara regionale per il trasporto pubblico locale. Un bando da 4 miliardi per 11 anni, accuse totalmente respinte però da Rossi. Querele eroi calunniatori. Ad annunciarlo su Facebook, il governatore della Toscana, Enrico Rossi, indagato nell'inchiesta sulla gara per il trasporto pubblico locale, un bando da 4 miliardi per 11 anni vinto da Autolinee Toscane, controllate dai francesi di RATP. I reati contestati a vario titolo sono di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità. In particolare, l'accusa mossa ad Enrico Rossi dalla Procura di Firenze è quella di turbativa d'asta. Secondo i PM, il governatore toscano avrebbe anticipato in un'intervista del 2015 l'esito dell'aggiudicazione ad Autolinee Toscane nonostante la gara non fosse ancora terminata. Ma Rossi ribadisce che l'esposto presentato dalla cordata di imprese che ha perso la gara lo mette sotto accusa, nascondendo il fatto che la notizia era di dominio pubblico già da un mese. Inoltre, sempre secondo Rossi, il contenzioso avrebbe causato un ritardo di almeno 4 anni per la partenza del nuovo servizio e provocato un grave danno economico carico alle casse regionali, impedendo ai cittadini di beneficiare di un trasporto pubblico locale moderno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura siamo allo sport, il calcio. Stasera la finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus all'Olimpico di Roma. Fischio d'inizio alle ore 21, si assegna il primo trofeo calcistico della stagione. Le voci degli allenatori alla vigilia, Sarri e Gattuso. Abbiamo giocato 7 mesi e poi abbiamo fatto 3 mesi di lockdown per arrivare a giocarsi queste partite. E noi giochiamo tutta la stagione per arrivare a questa fase della stagione in corsa per tutto, e ora bisogna tirare fuori quel qualcosina in più per andare a prendere più trofei possiamo. Questi giorni mi sono state molto vicine a me e alla mia famiglia, perché hanno tappezzato la città con parole molto belle, e penso che noi possiamo dargli una gioia grande. Penso che in questo momento dobbiamo concentrarci per giocarci al meglio questa finale, sia per noi che per tutta la città. 13 e 11 minuti, facciamo una piccola pausa. Effetto Giorno tornerà tra poco con tutte le altre notizie. Torneremo sulla decisione del Tribunale di Firenze di indagare il presidente della Toscana Rossi per la gara d'asta del trasporto pubblico locale. Al di là del caso giudiziario, cercheremo di capire quali prospettive ci sono per il settore dei trasporti in Italia, dove una battaglia legale può andare avanti come in questo caso al 2015. Da anni dovrebbe essere già operativo un nuovo operatore nel settore dei trasporti, ma è tutto fermo, è tutto prorogato. Poi dalle 13.30, ve lo anticipo, con il professor Bassetti di Genova parleremo della terapia per il Covid annunciata ieri dall'Università di Oxford. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presento. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe. Un unico partner, mille risorse. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Il recovery plan per l'Italia è un'opportunità storica, dice Conte alla Camera, che chiede unità per vincere la sfida in Europa, ma la Lega esce dall'aula in segno di protesta. In Cina torna la paura per i nuovi casi di Covid, a Pechino voli cancellati, quarantena e scuole chiuse. Toscana ha indagato il presidente Rossi per turbativa d'asta sul trasporto pubblico locale, lui replica accuse ridicole. Al via la maturità post-Covid per 500.000 studenti italiani. Napoli-Juve stasera si assegna il primo trofeo della stagione alle 21 all'Olimpico. minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, come avete sentito dai titoli della notizia, il presidente della Toscana Enrico Rossi è indagato a Firenze per la gara regionale per il trasporto pubblico locale, un bando che avrebbe dovuto rilanciare le liberalizzazioni, cioè il tema delle gare per la gestione del trasporto pubblico locale nel 2015, un bando da 4 miliardi per 11 anni. In realtà, dopo una serie di ricorsi, tutto è fermo. Rossi è indagato insieme ad altre 7 persone, le accuse vanno da turbativa d'asta, abuso d'ufficio, falso. Al di là di questo caso giudiziario, di cui pure bisognerà poi vedere, approfondire, capire, valutare, una riflessione: può un paese, una regione come la Toscana dover attendere 5-6 anni per far scattare le procedure di una gara che doveva, come dire, far ripartire e gestire un settore strategico come quello del trasporto pubblico locale? Parliamo dell'autobus, insomma, metropolitane, dove ci sono treni locali, insomma tutto quello che serve ogni giorno a ognuno di noi per muoversi nelle città. La riflessione la facciamo con Andrea Giuricin, economista dei trasporti presso l'Università Milano Bicocca. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Benvenuto. Allora, ricordiamo brevissimamente la vicenda. Nel 2015 Autolinee Toscane, leggo perché è una vicenda che ha dei punti, voglio essere veloce ma voglio essere anche corretto. Autolinee Toscane, un raggruppamento di imprese che ha al suo interno anche il colosso francese RATP, vince il bando europeo per la gestione della rete in regionale toscana. Vince questo bando battendo per molti punti l'offerta economica del rivale Mobit, un consorzio di che sono gli attuali gestori ancora del servizio su gomma nelle varie province toscane. Perde di pochissimo la valutazione tecnica, 60 per Mobit, 59,54 per il consorzio vincitore, che però vince di larga misura 3 la valutazione contro 1,75 per quanto riguarda il fattore economico. Quindi la vince il fattore economico. Da lì però inizia un ricorso dei perdenti che va avanti fino ad oggi. Poi si arriva all'indagine che riguarda anche Rossi. Giuricin, la prima questione è questa: che riflessione possiamo fare? Cosa ci insegna dal punto di vista della possibilità di modernizzare il paese in un settore strategico come quello dei trasporti questa lunga vicenda? Questa lunga vicenda in realtà ci insegna che l'Italia fa molta fatica ad introdurre il concetto di concorrenza, di gara per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Senza entrare nello specifico, senza entrare nell'indagine in corso, quello che si può dire è che comunque non è normale in un paese aspettare diversi anni per cercare di capire chi ha vinto una determinata gara. Questo non è il primo caso, ma la cosa secondo me è molto importante da sottolineare è che in Italia in generale si è sempre fatta troppo fatica a fare delle gare trasparenti per assegnare il trasporto pubblico locale. Ecco, questo secondo me è la cosa che non fa bene all'Italia, perché maggiore concorrenza significa maggiore efficienza, quindi più servizi per i cittadini e meno spreco di risorse pubbliche per lo Stato, per le regioni o per i comuni. Ecco, ricordiamo appunto che l'obiettivo di queste gare è migliorare il servizio, fare investimenti. All'epoca chi aveva vinto la gara, Autolinee Toscane, aveva promesso di mantenere posti di lavoro, anzi investire ancora con nuovi occupati, rinnovare tutto il parco mezzi, insomma un rilancio in pieno stile del settore dei trasporti locali della Toscana. Nel merito ti voglio chiedere una valutazione su questo. Il Consiglio di Stato aveva dato ragione alla Toscana a dicembre 2019 su questa gara, il Consiglio di Stato. È corretto, secondo te, che la decisione sul bando fosse stata presa dalla Toscana valutando l'offerta economica? Perché invece dal punto di vista poi dell'offerta tecnica c'era stato un testa a testa, anzi avevano vinto leggermente gli altri, che poi è il motivo per cui ne è scaturito il ricorso. Sì, è chiaro che dipende come, cioè l'importante è fissare bene i criteri a priori. A mio parere c'è un problema di base, diciamo, alla base di tutto questo, cioè che l'Italia in realtà non è così brava, in Italia ancora non si è ancora così capaci di fare gare. Perché? Perché negli ultimi 20 anni di gare non ne sono state fatte. Quindi per fare delle gare, per far sì che ci sia un processo concorrenziale vero e proprio e aumentare quindi l'efficienza, ci vuole anche la capacità nel fare le gare. Questo chiaramente l'Italia è molto indietro. Quindi a mio parere se si fissano, cioè la cosa importante è fissare bene i criteri in anticipo, far sì che tutti i criteri siano chiari a tutti i partecipanti, in modo di cercare di evitare poi tutti questi ricorsi che di fatto complicano la situazione e complicano di fatto anche il risultato, perché è evidente che a distanza di 5 anni il risultato è ancora con un punto di domanda esatto. E con delle indagini in corso. Risponda alla domanda cosa ci insegna questa vicenda anche Michele da Milano, un ascoltatore al 349-238-6666 dice: ci insegna che la giustizia così lenta è la morte del paese. Devo dire che se diciamo delle decisioni definitive fossero arrivate nel giro di un anno o due al massimo, certo la cosa sarebbe piuttosto semplificata. Più in generale, Andrea Giuricin, ti voglio chiedere un po' anche una riflessione prima di lasciarci su qual è un po' il modello di sviluppo di questo settore del trasporto locale secondo te, che si dovrebbe affermare, si sta affermando, chi per esempio dovrebbe garantire quegli investimenti necessari, abbiamo detto mille volte, a far funzionare questa delicata infrastruttura del nostro paese. Assolutamente, ci sono dei criteri base. A mio parere il criterio base, come ripetuto molto spesso, è proprio la concorrenza, cioè noi dobbiamo cercare di far vincere queste gare alle aziende che sono più efficienti, che riescono a fare meglio il servizio e danno maggiore qualità del servizio. È chiaro che anche il criterio economico è importante in tutto questo. Detto questo, è chiaro che poi estendo un settore comunque dove ci sono grandi investimenti pubblici, proprio per questa ragione è bene fare attenzione a far sì che i soldi non vengano sprecati anche per comprare treni o per comprare autobus, dipende poi dalla tipologia, ma è bene riuscire a far le gare ed è bene imparare a far le gare, perché altrimenti qua continueremo anche nei prossimi anni a ritrovarci in tante altre situazioni come queste e di fatto non si risolvono poi i problemi del trasporto pubblico locale in Italia. Grazie, grazie Andrea Giudicin, grazie per essere stato grazie con noi. A voi. Va bene, adesso come anticipato torniamo a parlare di questa giornata importante per 500.000 studenti italiani che affrontano l'esame di maturità. Per la verità soltanto i primi selezionati sono stati coinvolti oggi, perché come sapete c'è un colloquio di un'ora e quindi diciamo per garantire a tutti la possibilità di fare questo colloquio, anziché i classici esami scritti e poi orali, e si scaglioneranno questi esami nell'arco di credo fino, almeno fino a una decina di giorni. Un ritorno dal vivo della scuola a segnalare che abbiamo detto anche ieri c'è vita su Marte, lo ha sottolineato anche qui credo senza ironia la ministra Azzolina, che oggi ha detto, l'avete sentito poco fa nel GR, non era scontato fare questi esami, in altri paesi li hanno cancellati, certo in altri paesi hanno riaperto le scuole, però quindi diciamo che questo confronto è un po' ingeneroso nei confronti dell'Italia e secondo me anche un po' sbagliato da parte del ministro Azzolina. In ogni caso speriamo che sia vero quello che lei dice, cioè che si tratta come dire, del primo tassello della fase 2 o 3, chiamatela come volete, della scuola, che da questo momento in poi insomma, in ogni modo possibile e possibilmente senza interruzioni subito per via delle elezioni regionali a settembre possa definitivamente ripartire. Andiamo a sentire com'è andata questa mattina a Genova con Andrea Ferro. Dopo la notte più lunga, il giorno della maturità, quest'anno un giorno diverso da tutti gli altri, solo l'orale con le scuole riaperte apposta in un'atmosfera che risente inevitabilmente dell'eccezionalità forzata. I professori sui banchi, lo studente in cattedra, qui al liceo scientifico Martin Luther King di Genova, quartiere di Sturla. L'aria è carica di tensione e sollievo per il traguardo raggiunto e un po' anche per le modalità che aiutano a stemperare la paura, a dilatare l'emozione. Maturità più semplice, dicono un po' tutti. Bene, bene, facile. Perché facile? Perché la didattica a distanza ha aiutato molto, molto più diretta, veloce e le domande su temi abbastanza noti, superficiali, soprattutto ad inizio anno. Cosa ti hanno chiesto? Leopardi, Lucrezio, Seconda Guerra Mondiale, Kierkegaard. Com'è questa maturità? Un po' diversa, no? Sì, ma alla fine ce la si fa. Ognuno riesce a gestirsela bene come vuoi, i prof ti aiutano, quindi non è così complicata, almeno per me non è stato così. Io la devo fare domani, quindi... La notte non si dorme, esatto. Ecco, lo stesso, quindi... Com'è andata? Bene, bene, è andata bene. A parte di una materia, però bene. Mi aspettavo di affrontare gli iscritti, quindi senza gli iscritti è stato più semplice, però comunque abbastanza tosto. Ha sofferto più il papà? Direi di sì, assolutamente, però anche lei diciamo che non se l'è passata bene. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Bello dunque risentire le voci dal vivo a scuola degli studenti, finalmente dopo 100 giorni di chiusura. Un'ultima ora adesso che riguarda il recente conflitto tra l'India e la Cina al confine. I ministri degli esteri di Cina e India hanno avuto oggi un colloquio telefonico sui violenti e letali scontri tra le truppe dei due paesi nelle aree contese della regione di Ladakh, concordando entrambi sulla necessità di calmare le tensioni il prima possibile. Dunque una buona notizia sul fronte geopolitico internazionale. 13:26 minuti, facciamo una pausa, torniamo tra poco naturalmente con le informazioni di borsa e poi i titoli, e poi ve lo anticipo con il professor Bassetti, parleremo di quale prospettive si aprono con questa nuova terapia anti-Covid, che in realtà nuova non è, esiste già, ma ieri è arrivata la certificazione da parte dell'Università di Oxford sui primi diciamo dettagli scientifici, il fatto che questa cura funziona. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare tutte le notizie di giornata, tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Conte alla Camera chiede unità, il recovery plan per l'Italia è un'opportunità storica, dice, ma Lega e Fratelli d'Italia escono dall'aula in segno di protesta. In Cina torna la paura per i nuovi casi di Covid. A Pechino, voli cancellati, quarantena e tamponi a tappeto. Al via la maturità post-Covid per 500.000 studenti italiani. Nuova speranza nella terapia contro il coronavirus. L'Università di Oxford certifica l'efficacia del desametasone. Ne parliamo tra poco con il professor Bassetti di Genova. Napoli-Juve stasera si assegna il primo trofeo della stagione calcistica alle 21 all'Olimpico. minuti, eccoci qua in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666. Ne leggo uno, quello di Michele, che dice: rimandare a settembre la presentazione da parte del governo italiano del proprio recovery plan non mi sembra una dimostrazione di grande efficienza. Non è possibile per il governo avviare gradualmente da qua a settembre alcuni dei diversi progetti senza rinviare il tutto di oltre 2 mesi? Caro Michele, questo è il tuo messaggio. Dico, personalmente sono abbastanza d'accordo con te, siamo tutti un po' stufi di annunci, molti annunci in grande stile, compresi gli stati generali dell'economia, però bisogna forse distinguere tra gli aiuti all'economia in crisi per il Covid, che dovrebbero essere quanto più possibile immediati, parlo di cassa integrazione, insomma, sostegno al reddito di chi ha perso il lavoro, eccetera, e bisognerebbe essere velocissimi. Questo, c'è stato sicuramente un po' di ritardo, molto ritardo in alcuni casi da parte del governo e di tutti gli enti coinvolti. Altra questione, non facciamoci illusione, quella dei progetti di rilancio economici, come per esempio il Recovery Fund, il Recovery Plan per l'Italia, perché sono soldi che arriveranno A, tra la fine di 2020 e inizio del 2021, B, sono sottoposti a piani e progetti specifici, come credo sia giusto che sia da parte dell'Europa. Questi progetti andranno presentati ed è giusto che siano anche, ci sia una riflessione per decidere come spendere questi soldi in maniera strategica per il nostro paese, quindi insomma, mettiamoci l'anima in pace, sarà un percorso lungo e travagliato, ahimè, anche se questo non induce molto all'ottimismo, però è così, bisogna mettersi su questo ordine di idee. È il punto di Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. È un peccato che una parte dell'opposizione abbia deciso di disertare il dibattito in aula alla Camera sulla posizione che l'Italia dovrà tenere alla prossima riunione del Consiglio europeo del 19 giugno. Il confronto parlamentare resta il vero antidoto alle kermesse da one man show stile Villa Panfili, ad esempio, soprattutto perché è in gioco una visione del futuro dell'Italia e dell'Europa. In un momento in cui per la prima volta l'Unione tenta una sintesi solidale oltre gli interessi nazionali, cerca una spinta convergente verso un nuovo paradigma di sviluppo per uscire dalle secche della crisi portata dal virus. L'Europa prova a cogliere l'occasione di questa tragedia per proporre al mondo un modo diverso di fare manifattura, più sostenibile e sensibile alla conservazione del pianeta, che esca dalla retorica o dall'utopia per diventare davvero impresa e lavoro. L'obiettivo naturalmente devono essere i giovani, che l'egoismo della lotta tra gli interessi o tra le prerogative generazionali hanno posto anno dopo anno ai margini. Proprio quei giovani che oggi sono chiamati al rito di passaggio dell'esame di maturità, in condizioni così difficili e con un paese così impreparato che non prenderebbe la sufficienza. Questo è il punto di Alberto Orioli. Adesso facciamo invece il punto su una notizia che è arrivata ieri dall'Università di Oxford, una speranza per una terapia. Secondo l'Università di Oxford è efficace il desametasone, un antinfiammatorio steroideo che tra l'altro esiste già ampiamente disponibile e anche economico, perché costa circa 6 euro a paziente. Avrebbe effetti molto molto importanti, e la notizia è che c'è uno studio scientifico che avvalora questa tesi contro il Covid. Ne parliamo con il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova. Buongiorno, ben ritrovato Bassetti. Sì. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, di che tipo di farmaco stiamo parlando? Come agisce? Banalmente del cortisone. Il cortisone, questo qua, è uno dei tanti principi attivi che noi classifichiamo come cortisonici e che dà un beneficio perché ha un effetto sull'infiammazione che il Covid causa a livello soprattutto respiratorio, quando usato molto precocemente nei soggetti ospedalizzati, ed è in grado di ridurre la mortalità del 30%. Direi che questa è la conferma di ciò che molti centri, tra cui il mio, fa dal principio. Noi dal 6 di marzo utilizziamo su tutti i nostri pazienti in acuto il cortisone, quindi questa è la dimostrazione scientifica che avevamo visto lungo. Certo, però è importante, no, che ci sia questo passaggio, questa certo, dimostrazione scientifica. Il passaggio scientifico è sempre fondamentale, dobbiamo dirlo, è molto importante perché noi abbiamo fatto determinate scelte. Esatto, avete tentato in molti di fare delle cose, però si viaggiava anche un po', diciamo, al buio, giustamente per cercare di reagire. Adesso c'è una, come dire, una parola certa. È un'evidenza scientifica soprattutto. Ecco, senta, quindi diciamo lo stesso principio attivo si sta usando e si continuerà ad usare tranquillamente anche nel nostro paese, proprio lo stesso farmaco, giusto? Guardi, è quello che già si sta facendo, è quello che noi stiamo facendo, di utilizzare il cortisone nelle fasi precoci. Adesso credo che anche chi in qualche modo non era convinto, spero che si convinca e lo utilizzerà nell'eventuale fase successiva, perché esatto. Dobbiamo dire che oggi noi per fortuna nei nostri ospedali di malati non ne abbiamo praticamente più malati acuti, quindi fondamentalmente su cui usare il farmaco, perché non dimentichiamoci che un farmaco non si può usare quando l'infezione ha già fatto il suo corso, ma va usato nelle fasi molto precoci della malattia. Certo, e non è neanche un qualcosa da usare, come dire, come profilassi preventiva, non è un vaccino, insomma, bisogna avere i sintomi in fase iniziale e si curano in questo modo. Senta, fortunatamente non c'è una nuova ondata, anche se a guardare quello che sta accadendo, per esempio in Cina o anche negli Stati Uniti, dove più che di seconda ondata si parla di una prima onda che ancora non guarisce, in India per esempio, insomma, qualche preoccupazione, senza voler suscitare allarmismo, ma poi giustamente anche chi ci ascolta dice che ci accusa di, come dire, di amplificare le notizie inesistenti. Giusto per mettere un puntino sulle i nuovi casi, circa 300 registrati ancora ieri, cosa sappiamo per esempio se sono code del passato, sono code delle infezioni, l'RSA, negli ospedali, diciamo, familiari di pazienti già contagiati, oppure potrebbero essere anche legati alle riaperture? Noi che cosa sappiamo oggi su questi dati? Allora, sul fatto che siano legate alle aperture lo escludo nella maniera più categorica, nel senso che noi stiamo facendo questi tamponi a soggetti in cui ci aspettiamo di trovarli positivi, fondamentalmente persone che stanno nell'RSA, operatori sanitari, persone che hanno una sierologia positiva e che quindi devono fare il test. E trovarne soltanto questi numeri, perché ieri siamo veramente scesi drammaticamente nelle ultime due settimane, vuol dire che stiamo assistendo ormai a una coda di questo evento epidemico iniziale. Non dimentichiamoci che oltretutto qui stiamo parlando di positività al tampone, non stiamo parlando di malati. Certo. Perché questo è una cosa che noi dobbiamo dire, perché se no confondiamo le due cose. Noi ci siamo spieghi bene questo aspetto, professore. Noi ci siamo preoccupati giustamente a febbraio, a marzo, ad aprile di avere posti letto per tutti, perché tampone voleva dire malato. Quasi sempre malato, cioè uno che o stava a casa con dei sintomi non gravissimi oppure andava ancora peggio in ospedale per sintomi gravi. Qui di questi positivi del tampone non ci sono nuovi ricoveri. Quindi sono soltanto la sorveglianza che stiamo facendo. Sì. Sono dei contagi di persone nel 99% dei casi asintomatiche, che quindi per fortuna non portano a un aumento della pressione sul sistema. Soltanto pochi ricoveri, e quasi sempre sono ricoveri più precauzionali che non per reale necessità. Cioè la signora anziana dell'RSA ci diceva: guarda, è positiva, mettiamola in ospedale e osserviamola, perché magari... Certo, teniamola sotto controllo, ma non ci sono sintomi, cose che allarmino. Professor Bassetti, un'ultima cosa le voglio chiedere, riguarda quello che potremmo definire un po' il federalismo delle mascherine, no? Cioè, nel senso che qua veramente si assiste, forse ci saranno anche delle motivazioni, sicuramente ci sono, però ha delle differenze che in alcuni casi sono anche un po' sbalorditive. L'obbligatorietà rimane, per esempio, in Piemonte fino al 15 luglio, pianificata, in Lombardia fino al 30 giugno, non è obbligatoria da tempo in Veneto, in Liguria, se ho capito bene, sì, ma a Genova, ha detto il sindaco, no. In Emilia-Romagna addirittura si può assistere agli spettacoli senza mascherine, laddove invece proprio per gli spettacoli nelle altre regioni è indicata. Cos'è che giustifica questi diversi approcci? Sono giustificati secondo lei? Guardi, io non voglio entrare in agone politico perché non mi interessa. Io le dico quello che sappiamo dal punto di vista scientifico. Usare la mascherina all'aria aperta, francamente, quando non ho contatti con nessuno, non ha senso. E questo lo dice la scienza, e questo lo dice l'OMS, e questo lo dicono tutti. Quando io arrivo ad avere un contatto ravvicinato, devo usare la mascherina. E questi dovrebbero essere i principi che animano anche le decisioni da parte degli amministratori. se le decisioni sono prese in maniera diversa, avranno probabilmente, seguiranno probabilmente una letteratura diversa che non è la letteratura scientifica. Va bene, grazie professor Bassetti, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci. Beh, insomma, a commento di quello che diceva Bassetti, io sono abbastanza d'accordo con lui, inutile aggiungere confusione sul tema delle mascherine. Si è detto, ma se poi diciamo che la mascherina non serve, perché è vero che non serve all'aria aperta, però se lo diciamo poi mandiamo il principio, il messaggio alle persone che allora possono fare quello che gli pare. Ma questo è sempre il solito modo per trattare le persone come, scusate, degli imbecilli. Diciamo le cose come stanno, diciamo che la mascherina all'aria aperta a questo punto della situazione in cui siamo non serve più a nulla e togliamola. Questo è il mio modestissimo punto di vista. Adesso però Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Ciao. Ecco, allora, insomma, stiamo controllando perché arrivano notizie proprio in questi istanti. Cosa? Dal Consiglio Esecutivo dell'UEFA, confermata la finale di Champions League. Ah, quando? Sarà a Lisbona il 23 agosto. 23 agosto. Ed è confermata anche la formula della Final Eight, che è una formula assolutamente rivoluzionaria. Dunque avremo un mese in cui sostanzialmente le 8 migliori d'Europa si giocheranno tutto in 11 giorni fino alla finale del 23 agosto, tutti a Lisbona, mentre l'Europa League, e sta per arrivare la conferma, farà la stessa cosa ma in 4 sedi diverse in Germania. Ricordiamo tutto che in porte Europa chiuse, League, diciamo. Penso. Per il momento assolutamente a porte chiuse. In realtà la UEFA vorrebbe riaprire gli stadi, almeno parzialmente, come segnale politico, anche perché un po' in tutta Europa ci sono, sentivo parlare prima del federalismo delle mascherine, ci sono norme diverse sugli spettacoli e sullo sport. Sì. C'è un paese, la Serbia, dove è tutto aperto, ci sono paesi dove si può entrare a capienza ridotta e soprattutto un po' ovunque, e questo anche in Italia, ci sono spettacoli all'aperto che prevedono la presenza del pubblico. E quindi il ragionamento è perché non si può immaginare in uno stadio da 60.000 persone di mettercene, che ne so, 15.000. Giovanni, 20 secondi per l'attesa della finale di stasera. Beh, questa sera è una finale che ha mille storie dentro. Quella più bella è Maurizio Sarri contro la sua storia, cioè il Napoli. Entrambi i due tecnici, Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso, non hanno mai vinto un trofeo in Italia, quindi uno dei due riuscirà a rompere questo tabù. È una partita che tatticamente è difficile da inquadrare, anche perché le semifinali avrebbero detto che sta leggermente meglio il Napoli, che pure ha sofferto con l'Inter, però è anche vero che la rosa extra large della Juventus è sempre un vantaggio notevole. È sempre un bel bazooka. La vigilia in tutti i convocati a partire alle 14. Grazie Giovanni. Grazie a te. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo naturalmente tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.